terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Il giorno dopo, al suo risveglio, Emma vide il giovane di studio sulla piazza. Era in vestaglia, lei. Lui alzò la testa, la salutò. Lei annuì appena, richiuse la finestra. Per tutta la giornata Léon aspettò che arrivassero le 6, ma entrando nell'albergo trovò soltanto Binet già a tavola. La cena del giorno prima era stato un vero avvenimento per lui. Mai gli era capitato sino ad allora di poter parlare per 2 ore di seguito con una signora. Come aveva fatto a esporle, e con parole talmente scelte, tante cose che prima non sarebbe mai riuscito a dire tanto bene? Era timido di solito, manteneva quel riserbo che è un miscuglio di pudore e di simulazione. A Yonville lo trovavano un ragazzo proprio a posto. Stava a sentir sentenziare la gente d'età, non si mostrava un esaltato in politica, dote veramente notevole in un giovane. E poi aveva qualche talento, senz'altro. Dipingeva all'acquerello, sapeva leggere la musica in chiave di sol e dopo mangiato, se non aveva da giocare a carte, si dedicava volentieri alla letteratura. Il signor Homais lo teneva in considerazione per la sua istruzione. La signora Homais gli era affezionata per la sua cortesia. Infatti, abbastanza spesso, lui accompagnava ai giardini i piccoli Homais, marmocchi sempre luridi, maleducati e discretamente linfatici come la loro madre, del resto. Oltre alla serva, badava loro l'apprendista in farmacia, Justin, un lontano cugino del signor Homais, preso in casa per carità, come tutto fare, anche servo, naturalmente. Il farmacista si mostrò il migliore dei vicini. Dette informazioni alla signora Bovary su ciascuno dei fornitori, fece espressamente venire il suo vinaio, assaggiò personalmente il sidro e sorvegliò la sistemazione dei barili in cantina. Indicò anche la maniera più conveniente per mettere insieme una provvista di burro a buon mercato e concluse anche un accordo con l'Estibudois, il sacrestano, che oltre ad adempiere alle sue varie incombenze sacre e funerarie, si prendeva cura dei più importanti giardini. Charles però era triste. Non si vedevano clienti. Se ne stava seduto per delle lunghe ore senza dire una parola. Sonnecchiava nel suo gabinetto o contemplava la moglie cucire. Per distrarsi cercò di fare l'uomo di fatica in casa propria e si provò persino a dipingere il solaio con un resto di tinta dimenticato dagli imbianchini. Certo, il pensiero dei soldi non lo abbandonava. Aveva speso parecchio per le riparazioni di Toast, per gli abiti della signora e per il trasloco. Tutta la dote, oltre 3.000 scudi, se ne era andata in un paio d'anni. A distrarlo sopravvenne una preoccupazione migliore, la gravidanza della moglie. Via via che s'avvicinava al termine, lui le si affezionava maggiormente. Era un nuovo legame della carne che si formava, come la continua coscienza di una più viva complessità della loro unione. Quando la vedeva da lontano camminare pigramente, mollemente girare il torso sui fianchi, così, senza busto, o quando la contemplava faccia a faccia, a proprio agio, assumere sulla poltrona pose d'abbandono, allora la felicità di lui non conosceva limiti. Si doveva alzare, doveva baciar la moglie, doveva passarle le mani sulle guance, doveva chiamarla mammina, avrebbe voluto farla ballare. Le prodigava un poco, ridendo e un poco piangendo, tutte le più tenere buffonaggini che gli venivano in mente. Lo entusiasmava l'idea di essere padre. Non gli mancava nulla ora. Conosceva in tutto e per tutto l'esistenza umana. Vi si appoggiava sopra con i gomiti, serenamente. Emma, dapprima, provò un vero sbalordimento. Poi ebbe voglia di sgravare, liberarsi, per sapere cosa potesse significare essere madre. Ma non potendo fare le spese che desiderava, ovvero una culla a forma di barchetta con tendine di seta rosa e qualche cuffietta ricamata, rinunciò al corredo. In un accesso di sconforto lo ordinò tutto intero a una cucitrice del villaggio. Non stette a deciderne o a discuterne neppure un particolare. Dunque non si divertì in quei preparativi che di solito predispongono le madri alla tenerezza. Forse per questo la sua capacità di affezionarsi alla prole risultò sin dall'inizio in qualche modo attenuata. Ma Charles non faceva che parlare del marmocchio a tavola e anche lei cominciò a pensarci più spesso. Emma desiderava un bel maschio. Sarebbe stato grande, grosso e bruno. Lo avrebbe chiamato George. E in quest'idea di avere un figlio, non una figlia, vagheggiava la rivincita su tutte le sconfitte del passato. Un uomo almeno è libero. Può passare attraverso le passioni e i paesi, superare gli ostacoli, gustare le più remote felicità. Ma una donna è continuamente frustrata. Inerte e flessibile insieme, ha contro di sé le debolezze della carne come le schiavitù del codice. La sua volontà, come il velo del suo cappello trattenuto da un cordoncino, palpita a ogni vento. C'è sempre qualche desiderio che la trascina. C'è sempre qualche convenienza che la trattiene. Partorì una domenica, verso le 6, spuntava il sole. «È una bambina!» disse Charles. Lei girò la testa dall'altra parte. Svenne. Subito accorse la signora Omé e la baciò. Fece altrettanto la vedova Le François del Leon d'Oro. Il farmacista, ostentando discrezione, le indirizzò solo qualche complimento provvisorio attraverso la porta socchiusa. In compenso volle esaminare la neonata e la trovò conformata bene. Durante la convalescenza lei si scervellò per trovare un nome per la figlia. Prima passò in rassegna tutti i nomi con desinenza italiana come Clara, Luisa, Amanda, Atalà. Non le dispiaceva certo Galsuind, per non parlare poi di Ise o Leocadie. Alla fine Emma ricordò che al castello della Vaubyessard aveva udito la marchesa chiamare Berthe una giovane donna. Da quel momento quello fu il nome. Un giorno Emma fu presa improvvisamente dal desiderio di rivedere la sua bambina che aveva messo a balia dalla moglie del falegname e, senza guardare sul calendario se le 6 settimane della Madonna fossero finite, si avviò alla casa di Rollet, che era all'altra estremità del villaggio, in fondo al colle, tra la strada maestra e le praterie. Era mezzogiorno. Le case avevano le imposte chiuse e i tetti di ardesia che luccicavano sotto la violenta luce del cielo azzurro parevano sprigionare scintille dalla cresta dei comignoli. C'era un vento pesante. Emma si sentiva così debole a camminare. Le selci del marciapiede la ferivano. Si fermò, incerta se tornarsene a casa o entrare da qualche parte e sedersi. In quel momento, Léon uscì da una porta vicina, con un fascio di carte sotto il braccio. Venne a salutarla. La signora Bovary disse che andava a visitare la figlia, ma che cominciava a sentir la stanchezza. «Se...» azzardò Léon e non osò proseguire. «Avete qualcosa d'urgente da fare?» domandò lei, e alla risposta del giovane di studio lo pregò di accompagnarla. La sera stessa il fatto fu noto in tutta Yonville e la signora Tuvache, moglie del sindaco, dichiarò in presenza della serva che la signora Bovary si comprometteva. I due procedevano affiancati, lentamente. Lei si appoggiava a lui, lui misurava i propri passi su quelli di lei. Davanti a loro uno sciame di mosche e moscerini volteggiava ronzando nell'aria calda. Riconobbero l'abitazione da un vecchio noce che le faceva ombra. La balia si fece sulla soglia. Aveva in braccio un bambino che poppava. Con la mano libera si tirava dietro un povero marmocchio macilento e scrofoloso, il figlio di certi merciai di Rouen, lasciato perpetuamente in campagna dai genitori troppo presi dalla loro bottega. «Venite avanti!» disse la donna. «La vostra piccola è lì dentro che dorme!» La bambina di Emma dormiva per terra, in una culla di vimini. Lei la tirò su con tutta la coperta in cui era avvolta e prese a canticchiare dolcemente, dondolandosi. Léon andava in su e in giù nella stanza. Gli pareva strano vedere quella bella signora in nanchino, in mezzo a tanta miseria. Lei diventò rossa. Lui si girò da un'altra parte, temendo di averla guardata impertinentemente. Poi lei rimise giù in fretta la bambina, che aveva appena finito di vomitarle sul colletto. La balia l'asciugò premurosamente, le assicurò che non si sarebbe vista la macchia. «Me ne fa ben altre, debbo continuare a pulirla. Per favore, potreste dare ordine a Camus, il droghiere, di lasciarmi prendere un poco di sapone quando mi occorre? E sarebbe anche più comodo per voi, così non avrei bisogno di disturbarvi ogni volta. Va bene, disse Emma. Arrivederci, mamma Rollet. E uscì, asciugandosi i piedi sulla soglia. Sbarazzatasi della balia, Emma riprese il braccio di Léon. Tornarono a Yonville costeggiando il fiume. Parlavano di una troupe di ballerini spagnoli che doveva arrivare presto al teatro di Rouen. «Andrete a vederli?» domandò lei. «Se mi sarà possibile», rispose lui. Non avevano proprio altro da dirsi. I loro occhi, a ogni modo, svolgevano una conversazione più seria. E mentre si sforzavano di trovare qualche frase banale, tutte e due si sentivano pervadere da uno stesso languore, come un mormorio dell'anima, profondo, continuo, dominava quello delle voci. Stupefatti da quella nuova soavità, non pensavano a raccontarsene la sensazione oppure a scoprirne la causa. Le felicità future, come le spiagge dei tropici, proiettano sull'immensità che le precede le loro native mollezze, quasi una brezza profumata, e ci si assopisce in questa ebbrezza senza inquietarsi dell'orizzonte che non si può vedere. Quando furono arrivati davanti al suo giardino, la signora Bovary spinse il cancelletto, salì gli scalini, correndo, e scomparve. Léon tornò allo studio notarile. Il suo padrone era assente. Lui gettò uno sguardo alle pratiche, poi temperò una penna, alla fine afferrò il cappello e uscì. Andò alla pastura, in cima al colle d'Argueil, all'inizio della foresta. Si sdraiò a terra sotto gli abeti e stette a guardare il cielo attraverso le dita. Come m'annoio, si ripeteva. Si trovava proprio da compiangere per il fatto di dover vivere in quel buco, con Omé come amico e Guillaumin come padrone. Quest'ultimo, occupatissimo negli affari, con gli occhiali a stanghetta d'oro e i favoriti rossi sulla cravatta bianca, non capiva nulla di nulla a proposito delle delicatezze sentimentali, sebbene ostentasse certe maniere un poco rigide all'inglese che nei primi tempi avevano fatto la loro impressione sul giovane di studio. Quanto alla moglie del farmacista, era la più brava sposa di tutta la Normandia, mite come una pecora, amantissima dei figli, del padre, della madre, dei cugini, facile a sparger lacrime sui guai altrui, e in casa lasciava che tutto andasse come capitava e detestava i busti. Ma era così lenta quando si muoveva, così noiosa quando parlava, così banale d'aspetto, così limitata di conversazione, che a lui non era mai passato per l'anticamera del cervello, sebbene lei in fin dei conti avesse solo 30 anni e lui 20, e dormissero porta a porta e avessero da discorrere ogni giorno. Non gli era mai neppure capitato di pensare per scherzo che per qualcuno quella potesse essere una donna, che insomma del suo sesso possedesse qualcosa di più delle sottane. E poi chi altro c'era? Binet, qualche commerciante, 2 o 3 osti, il curato e infine il signor Tuvache, il sindaco, con i suoi 2 figli. Gente danarosa, spigolosa, ottusa, che coltivavano da soli la propria terra facendo delle gran spanciate in famiglia. Buoni cattolici, senz'altro, e senz'altro insopportabili come compagnia. Ma sul piatto, uniforme sfondo di tutte quelle facce, i lineamenti di Emma si stagliavano, isolati eppure più remoti. Léon avvertiva lo spalancarsi tra loro due di indefiniti abissi. Agli inizi era andato a trovarla più volte insieme con il farmacista. Charles non si era mostrato troppo interessato a rivederlo e Léon non sapeva proprio cosa fare ora, diviso tra la paura di risultare indiscreto e il desiderio di conquistare un'intimità che gli pareva del resto impossibile. Alle serate del farmacista non andava molta gente. La sua maldicenza e le sue opinioni politiche avevano a poco allontanato da lui più di una persona rispettabile. In compenso il giovane di studio non vi mancava mai. Appena sentiva il campanello, correva incontro alla signora Bovary, le prendeva lo scialle e badava a posar da parte sotto il banco della farmacia le grosse pantofole di cimosa che lei portava sugli scarpini quando c'era la neve. Dapprima facevano qualche partita a 31, poi Omé giocava alle carte con Emma. Léon, stando dietro di lei, le dava qualche consiglio. In piedi, con le mani sullo schienale della sedia di lei, contemplava i denti del pettine morderle il nodo dei capelli. A ogni movimento che faceva per gettare le carte, la veste le si sollevava dalla parte destra. Dai capelli rialzati, un riflesso bruno le scendeva sul dorso, e impallidendo a poco andava a perdersi nell'ombra. Più in basso la sua veste ricadeva dai 2 lati sulla sedia e gonfiandosi e ripiegandosi si stendeva sino al pavimento. Thank you. Quando la partita a carte era finita, il farmacista e il medico attaccavano a giocare a domino. Emma cambiava posto, si metteva con i gomiti sulla tavola a sfogliare l'illustrazione. S'era portata il suo giornale di mode. Leon le si sedeva accanto. Guardavano insieme le incisioni e si aspettavano a fin di pagina. Spesso lei lo pregava di recitarle dei versi. Leon li declamava con una voce lenta che si smorzava sapientemente ai passaggi amorosi. Ma il rumore delle pedine lo infastidiva. Omè era forte a quel gioco, riusciva a battere Charles a pieno doppio sei. Poi, terminate le partite a 100 punti, quei due s'allungavano davanti al fuoco e non tardavano ad addormentarsi. La brace si spegneva nella cenere, la teiera era ormai vuota. Leon continuava a leggere, Emma continuava ad ascoltarlo, facendo meccanicamente girare il paralume sulla cui garza erano dipinti certi Pierrot in carrozza, certe ballerine in bilico sulla corda. Leon s'azzittiva, indicava l'auditorio addormentato. Allora si parlavano a bassa voce e quella conversazione gli pareva più dolce proprio perché non era intesa da alcun altro. Così si stabilì tra loro una specie d'accordo, un continuo commercio di libri e di romanze. Il signor Bovary non era geloso di natura e non si stupiva che questo avvenisse. Per la sua festa ricevette in dono una bella testa frenologica, tutta stampigliata di cifre e dipinta di turchino. Era un'attenzione del giovane di studio, che del resto ne aveva ben altre. Arrivava a incaricarsi delle commissioni del medico a Rouen e, avendo un romanzo messo recentemente in voga alle piante grasse, ne acquistò una per la signora del medico e gliela portò sui suoi ginocchi nella rondine, pungendosi le dita con quegli spini crudeli. Lei fece sistemare contro la finestra una mensola con una balaustra per metterci i suoi vasetti. E anche il praticante del notaio ebbe il suo giardinetto pensile. E così si vedevano mentre curavano i loro fiori alla finestra. Tra le finestre del villaggio ce n'era tuttavia una occupata con frequenza anche maggiore. Infatti ogni domenica dall'alba al tramonto e ogni pomeriggio, se c'era luce, si poteva vedere ai vetri d'un solaio il magro profilo del signor Binet curvarsi sul suo tornio, il cui monotono ronzare arrivava sino al Leon d'Oro. Una sera, rincasando, Leon trovò nella propria camera un tappeto di velluto e lana disegnato a fogliami su fondo pallido. Chiamò la signora Omè, Justin, i marmocchi, la cuoca. Ne parlò al padrone. E tutti vollero vedere quel famoso tappeto. Perché mai la moglie del medico era così generosa con il giovane di studio? La faccenda parve strana. Si concluse che doveva essere realmente la sua buona amica. Del resto, era lui stesso a lasciarlo credere, dato che non faceva altro che magnificarne con tutti il fascino e lo spirito, tanto che Binet una volta gli replicò brutalmente: «A me cosa importa? Io non c'ho rapporti!» Leon si torturava per trovare il modo di farle la dichiarazione, ed eternamente esitando tra la paura di dispiacerle e la vergogna d'essere così pusillanime, piangeva di scoraggiamento e di desiderio. D'improvviso prendeva le più energiche decisioni, scriveva lettere che poi ovviamente stracciava, si fissava baldanzosamente delle scadenze che poi infallibilmente prorogava. Spesso si metteva per strada con la salda decisione di tutto usare, ma una simile risoluzione lo abbandonava appena si trovava in presenza di Emma, e quando Charles, sopraggiungendo, lo invitava a salire sul suo boc per andare a visitare insieme qualche malato nei dintorni, lui accettava immediatamente, salutava la signora e se ne partiva. Non era forse in qualche modo qualcosa di lei, suo marito? Quanto a Emma, lei non si chiese mai se lo amasse. L'amore, era la sua convinzione, doveva arrivare tutto d'un colpo, con grandi tuoni e lampi, uragano celeste che piomba sulla vita, la sconvolge, strappa le volontà come foglie morte, trascina l'intero cuore nell'abisso. Non sapeva che sulle terrazze delle case la pioggia forma larghe pozze quando le grondaie sono ostruite, e così restò tranquilla, sinché non le toccò di scoprire d'improvviso una crepa nel muro.